Abiti eleganti, sorrisi smaglianti e occhi ben aperti, perché al Salone del Mobile gli espositori non devono preoccuparsi solo di stupire gli ospiti e di chiudere i migliori affari possibili con clienti provenienti da tutto il mondo. Uno dei pensieri è anche quello di proteggere i propri prodotti da chi copia e approfitta dell'occasione per rubare scatti e dettagli di prodotti pensati per essere unici. Ma che unici non restano, dato che spesso bastano poche settimane per trovare sul mercato prodotti di prezzo minore, uguali in tutto e per tutto agli originali, o quasi, come spiega Massimiliano Messina di Flu. È possibile fare un prodotto che costi meno, con caratteristiche diverse. Il problema è quando questo prodotto viene vestito di un'immagine di un prodotto che ha una qualità superiore. E questo secondo me è un inganno. Al di là dei dettagli da film di spionaggio, e i moderni telefoni con fotocamera sono i primi indiziati, dietro le lamentele degli operatori del settore c'è un problema serio, che genera perdita economica ed è legato a un retroscena legislativo. Nel maggio scorso, in seguito a una procedura di infrazione da parte dell'Unione Europea, l'Italia aveva approvato una legge di tutela del design industriale, legge poi congelata dal governo Monti con il decreto mille proroghe. Un rinvio di 4 anni che ha provocato grande disappunto tra le aziende, che si chiedono, amaramente, perché l'Italia non riesca a tutelare a dovere nemmeno le sue eccellenze. Fabio Pisano, Radio 24, Il Sole 24 Ore.